mi rendo conto che di voglia non ce n'è. Provarci con lei o con te. Io non so cosa dire, non riesco a interagire con questa che mi guarda e fa vorrei dimagrire. Non sono capace di fingere, fingere col solo obiettivo di spingere, spingere. Allora torno a casa e per fortuna che ci sei e grido ottimo, ottimo, ottimo direi. Ottimo direi, ottimo direi. Mi trovo nella stessa stanza di Sasha Grey. Ottimo direi, ottimo direi. Mi trovo nella stessa stanza di Sasha Grey. Masturbation. Per questa masturbation ci metterò passione. Anche questo è un passo per l'evoluzione. E mentre lei si eccita, io evito una recita. La mia masturbazione è una droga lecita. Porno a tutto volume, nel palazzo si sente l'eco. Aveva ragione il prete, oramai sono cieco. Diceva bambini non fate i porcelli. Io potrei pure fare un feat con Bocelli. Non scopri proprio mai, dottor Clavis, Clavis. E tu mi vuoi far credere che sei gratis? Ah, allora resto a casa, mi siedo, schiaccio play e grido ottimo, ottimo, ottimo direi. Ottimo direi, ottimo direi. Mi trovo nella stessa stanza di Sasha Grey. Ottimo direi, ottimo direi. Mi trovo nella stessa stanza di Sasha Grey. Masturbation. Di cosa ti occupi? Guadagni con YouTube? Guardami negli occhi e non parlare più. Porno a tutto volume, nel palazzo si sente l'eco. Aveva ragione il prete, oramai sono cieco. Diceva bambini non fate i porcelli. Io potrei pure fare un feat con Bocelli. Allora corro a casa, questo spazio è mio. In fondo siamo tutti masturbation di Dio. Forza sulle mani, anzi una amici miei, perché l'altra serve a ottimo direi.